Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi su Radio 24. Termina una settimana di Italia in controluce, l'approfondimento e l'informazione su Radio 24. Trema la terra nel Pollino, nel Parco del Pollino, che si trova tra Basilicata e Calabria, uno dei luoghi forse più belli d'Italia. La terra ha tremato alla 1.05 di stanotte, poi subito dopo almeno per 100 volte. Un anziano di Scalea è morto di infarto, un migliaio hanno dormito all'aperto nei vari paesi della zona. E la cosa più importante, al di là di quello che è accaduto, è che negli ultimi due anni, proprio nella zona, si sono registrati 2.200, avete capito bene, 2.200 eventi sismici. Ma a differenza dell'Aquila, questa volta la protezione sembra abbia lavorato bene. E Franco Gabrielli, capo della protezione civile, poco fa ha detto che il sistema ha funzionato bene. Sentiamolo. Sono dei problemi, Franco Gabrielli, protezione civile, il sistema ha funzionato bene, questo è quello che ha detto in conferenza stampa poco fa. Ho riscontrato una grande efficienza e quindi questo mi conforta per quello che, per il lavoro che è stato fatto, ma anche per quello che dovremo fare, perché vorrei che qui fosse chiara una cosa su tutti: questa non è l'ultima scossa, il tema dello sciame o del problema sismico di questo territorio non è concluso per il Pollino, come non è concluso per l'intera Calabria, come non è concluso per tutta quella parte del territorio nazionale particolarmente esposta a eventi sismici. Quindi mi piacerebbe che la capacità con la quale questo territorio, suo malgrado, ha fatto tesoro delle esperienze negative, la capacità delle istituzioni di darsi delle regole e di farle rispettare, l'informazione che i sindaci con grande competenza e grande continuità hanno saputo fornire ai loro territori in questi mesi diventasse una sorta di spot nazionale. Tutto si mischia in una giornata dove sempre pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiedere il ritiro delle dimissioni dei membri della Commissione Grandi Rischi, quella che si era dimessa per protesta dopo la sentenza del Tribunale dell'Aquila. E voi che cosa ne pensate? Allora, questi scienziati della Commissione Grandi Rischi devono secondo voi ritornare come chiede il Consiglio dei Ministri oppure niente, devono mantenere le dimissioni? 349-238-6666. Valentina Furlanetto in diretta. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Come dicevi, c'è stata questa forte scossa magnitudo 5 a cui hanno fatto seguito altre scosse. La situazione al momento è questa: sono iniziati i sopralluoghi nel comune del Pollino danneggiati, lì c'era anche Gabrielli, capo della protezione civile che abbiamo appena sentito. È stato deciso di evacuare l'ospedale e di chiudere le scuole per due giorni. In altri centri come Laino Borgo, Altomonte, Rotonda e anche nel centro più colpito, che è Mormanno. A Laino Borgo è stata sgomberata una casa di riposo per anziani. I segni del terremoto si vedono già sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Sull'asfalto ci sono pezzi di roccia che si sono staccati dai costoni laterali. Invece, per quanto riguarda i trasporti, e parlo dell'ANAS e le ferrovie, non ci sono stati forti problemi. La macchina dei soccorsi è in piena attività e sembra abbia funzionato. A Mormanno si è svolta una riunione presieduta dal prefetto di Cosenza con i vertici delle forze dell'ordine e con i sindaci dei comuni danneggiati. Come dicevi, è una zona che da due anni vive scosse continue. Alcuni abitanti della zona addirittura vivevano, pensate, da mesi nelle auto, dormivano nelle auto proprio per la forte paura. A questo proposito, Cartia Caramelli questa mattina ha sentito il sindaco di Rotonda, un paese del Potentino, Giovanni Pandolfi. Vi facciamo sentire la sua testimonianza. Stiamo avvertendo già da un paio d'anni, quindi noi ci stiamo convivendo un po' con il terremoto. Ci sono stati danni che lei sappia già? Beh, i danni in un certo senso, oppure di subire molte scosse, qualche cosa c'è. Siccome noi abbiamo già subito il terremoto di 80, 82, 98, abbiamo fatto un bel recupero di immobile, diciamo i danni ci sono, ma non sono tante quanto potevano esserci se non avevamo fatto questo recupero. La gente è scesa in strada, si trova in strada. Sì, siamo scesi tutti in strada. C'è gente che vive in macchina, che ancora sta in macchina. Questa notte siamo stati tutti fuori. Il sindaco di Mormanno, Guglielmo Armentano, il 2 ottobre scorso, in una comunicazione inviata al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al Presidente della Regione Calabria, aveva segnalato proprio queste scosse, il disagio vissuto dai cittadini. Lo stesso giorno il Dipartimento della Protezione Civile aveva convocato la Commissione Nazionale Grandi Rischi, settore rischio sismico, per analizzare lo sciame sismico del Pollino. Come dicevamo, è stato evacuato anche l'ospedale di Mormanno. Allora sentiamo la direttrice sanitaria Marilena Morano, che abbiamo sentito questa mattina. L'ospedale è stato evacuato perché il panico, è stato soprattutto il panico che ha giustamente fatto spaventare gli operatori e soprattutto i pazienti allettati, e sono caduti su pellettili, sono caduti computer, è stata una scossa molto forte. La struttura ha mantenuto, e sono caduti calcinacci, chiaramente ci sono delle crepe, però mi ha mantenuto bene. Avete subito dei danni? Ho dei tubi dell'acqua rotti e soprattutto nei piani alti ho crepe e cadute di calcinacci, però la struttura ha mantenuto e quindi i pazienti, dal mio punto di vista come direttore sanitario, quello che mi rende, diciamo, relativamente tranquilla è che non ci siano state lesioni traumatiche da cadute di calcinacci. È stato solo, per quanto riguarda i pazienti, molta paura, chiaramente, ma tantissima. Questo è il racconto, intanto tutto questo racconto che riguarda la terra nel Pollino che trema. Avete sentito Valentina Forlanetto e avete sentito anche le testimonianze prima del sindaco di Rotonda, poi della direttrice sanitaria dell'ospedale di Mormanno, Marilena Morano. Tutto questo, dicevo, si mischia ad una notizia che è in corso proprio in questo momento. Qui abbiamo chiesto a voi di partecipare con il vostro racconto, con le vostre opinioni, cioè vi abbiamo chiesto che cosa pensate della decisione del Consiglio dei Ministri che pochi minuti fa ha deciso di chiedere il ritiro delle dimissioni dei membri della Commissione Grandi Rischi, quelli che si era dimessa per protesta dopo la sentenza del Tribunale dell'Aquila. Sono arrivate decine di scritture dai vostri SMS, non solo mantenere le dimissioni ma smettere di parlare con la stampa, dice Luisa. La scienza non si fa con i titoli gridati, tutti a casa, burocrati e inefficienti, scrive un altro ascoltatore. Paola da Genova dice che devono andare, altrimenti a cosa servono le sentenze, se non si prevede non sottovalutare, dice Paola da Genova. Devono tornare per senso di responsabilità, poi è necessario verificare le inadempienze caso per caso, scrive Walter da Milano. Giuseppe da Udine scrive che crede che dietro la sentenza della magistratura ci sia la volontà di trovare un colpevole, che però non c'è. Lo Stato vuole o vorrebbe dimostrare di esserci dando in pasto alla gente dell'Aquila alla Commissione Grandi Rischi e poi lavandosi le mani. Secondo Giuseppe da Udine dovrebbero rifiutare di ritirare le dimissioni per coerenza e lasciare allo Stato le decisioni future. Poi c'è Claudio che dice che per tornare dovrebbero pagare i veri responsabili, cioè, secondo Claudio, Bertolaso e Berlusconi, che fanno pagare gli scienziati per non pagare loro. Devono andare via perché si sono contaminati politicamente. La vera scienza invece, secondo un nostro ascoltatore che non si firma, sarebbe immune da contaminazione. Andrea da Prato al 349-238-6666 scrive che gli esperti devono restare e che i giudici devono invece andarsene. Un altro ascoltatore, due parole, devono dimettersi, via, non hanno fatto il loro lavoro, valutare il rischio, non prevedere i terremoti, dice Alberto da Padova, è così, ma che vada, si vada via un magistrato a fare i grandi rischi, intelligente per concorso, scrive scrive Roberto Manzoni. Io non mi fiderei di questo stato incoerente, ignorante e forcaiolo, scrive Corrado da Como. Insomma, tantissime sono le vostre idee e i vostri sms, come sempre al 349-238-6666. Oggi abbiamo parlato del pollino, lunedì torneremo, non ci sarà scuola in controluce perché lunedì, vi ricordo, ci sono le elezioni siciliane, altro appuntamento politico importante, quindi sentiremo i risultati, perché proprio a quest'ora ci saranno quasi forse i risultati definitivi delle elezioni regionali in Sicilia. Vi ricordo la nostra pagina su Facebook, il nostro gruppo sempre su Facebook e Twitter, poi la nostra mail controluce@radio24.it. Un saluto da Daniele Biacchese.